Allora io vorrei infilarmi in un locale, sì, va bene. Perché questo negozio qui è all'ingresso del centro e vedono tante cose, in più è una web agency, quindi fa un lavoro anche, come dire, un po' dentro a... Cominciamo di qua. Contemporaneità, permettimi di usare questa parola, sì? Magari non è il massimo. Io ti parlo perché ho capito che questo microfono è eccellente, da qui mi prende sì, perfettamente. Sì, sì, certo, finora è così, abbiamo... Vediamo, è occupato. Vedo che sono un po' indaffarato. Allora, facciamoci una passeggiata. Facciamo due passi qua. Sì, sì, sì. Ah, questi signori li abbiamo incontrati prima. Sono turisti di Genova che abitano a Cervo e sono venuti qui per la prima volta. Buongiorno, buongiorno. Perché io vorrei un po' approfittare del fatto che c'è ancora un po' di tempo a quest'ora per fare due chiacchiere anche con i commercianti. Certo. E quindi, però è bello anche vedere, beccare, per esempio, questo vende prodotti. C'è qualcuno sul tema? Proviamo a spiccio. Sì, vai. Infatti fa parte dell'associazione. Buongiorno. Commercianti. Buongiorno.